radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Puntuali più che mai, iniziamo quest'oggi il nostro primo appuntamento di questa settimana. Oggi è il 18 di aprile 2012, la Chiesa Cattolica festeggia San Calogero e quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Calogero. Nell'agrigentino è un nome piuttosto diffuso. Ricordiamo dei nativi importanti di oggi. Nel 1480 nacque Lucrezia Borgia, ardito Desio nel 1897, il primo conquistatore del K2, che fu proprio nel 1954. Poi abbiamo Clive River attore, James Wood attore e, con i tempi nostri, una più conosciuta è Natasha Stefanesco. Auguri anche a tutti coloro che oggi compiono qualcosa, un compleanno, una data importante da ricordare come la laurea, un incontro particolarissimo. Vi ricordo come potete fare per partecipare a questa trasmissione tramite i nostri numeri telefonici, che sono il 335 56 37 251 oppure lo 09 21 92 32 92. Inoltre avete a disposizione il nostro bellissimo sito internet che è www.crmepiradio, da dove potete fare le vostre dediche, le vostre richieste, da dove poi fra le altre cose potete seguirci perché ha un audio particolarmente interessante. Partiamo subito con la musica e lo facciamo con Celeste Gaia, che ha partecipato all'ultimo festival della canzone italiana di Sanremo con questa simpatica canzone molto frivola e anche piuttosto leggera. Si intitola Carlo e facciamo i cuori a tutti i Carlo. Di grigio c'era l'acqua sulla strada e l'angolo di pane profumava. Quel rosso un po' sbavato mi guardava, cosa cercava? L'anello io lo guardo, mi sta stretto. Se capita lo lancio giù dal tetto. Mi stringo le parole dette in bocca. Che va al sesto piano. Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo. Ho sempre pensato che fosse un bel nome, ma adesso io cambio opinione. Verdi, verdi, mi piacciono gli occhi verdi. Mi sanno di calma, interiore, equilibrio, sempre associati all'amore. Secondo, ma ci penso. Se scendo prima è chiaro che lo perdo. E fermo questa macchina infernale, così non vale. Dal quarto poi cadiamo al primo piano. Ritrovo quel suo sguardo più vicino. È bello più di quanto mi aspettavo. Aprono, ricordo di essere in Francia. Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo. Ho sempre pensato che fosse un bel nome, ma adesso io cambio opinione. Verdi, verdi, mi piacciono gli occhi verdi. Mi sanno di calma, interiore, equilibrio, l'ho sempre associati all'amore. Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo. Ho sempre pensato che fosse un bel nome, ma adesso io cambio opinione. Verdi, verdi, mi piacciono gli occhi verdi. Di calma, interiore, equilibrio, lo sempre associati all'amore. Eh. Il 18 aprile del 1993 la netta vittoria del sì al referendum per il sistema elettorale al Senato avvia la riforma istituzionale, che è quella che abbiamo parlato l'altra volta a proposito di questo adesso rimborso elettorale che hanno i partiti. In questo caso nel 93 proprio c'era stato questo referendum che aboliva, diciamo, questo contributo ai partiti. Si spietati di una donna che hai perso, quando il freddo di tutto l'inverno brucia più dell'inferno, e ti guardi dentro e capisci che qualcosa hai sbagliato. Anche questa è vita, vagabondi e innamorati a una stazione, in un cestino, in un abbraccio c'è uguale immersione, così acido è il sapore di una delusione. Anche questa è vita, un lavoro che non sopporti ma che devi fare, perché senza uno stipendio sei un difetto sociale. Perché crepi per consumare, consumi crepando. Anche questa è vita, ritrovarsi in una rissa di sabato sera, come sfondo le luci blu di una sirena, mentre scappi e tutto intorno è una nuvola nera. Anche questa è vita, ascoltare i politici che fanno chiari discorsi, che il paese ha bisogno soltanto di iene ghignanti, di pagliacci da televisione, dettagli eleganti. Anche questa è vita, ingoiare una polaroid di carta vetrata, regressione in chiave etilica di un'altra giornata. Non potresti mai capire quanto ti ho amata. Oh no, dove sei? Mi hai lasciato in un oceano di filo spinato. Io ti ho dato prati di viole, tu cemento armato, cemento armato. Mi hai lasciato in un oceano di filo spinato. Io ti ho dato prati di viole, tu cemento armato, cemento armato, cemento armato. Slalom. Flashback. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Fuori quanto è brutto il tempo, però si è calmato il vento, il mio sguardo è meno freddo, questo inverno sta finendo, ogni cosa c'ha il suo tempo, chi ha pazienza ne uscirà, vado avanti e non ci penso, questo inverno passerà. Oggi è domenica e tu gridi isterica, e io qui col viso caldo per le botte, mentre nel mio cuore nevica. Quando ti ho detto una come te non mi merito, ero ubriaco, ma mi hanno insegnato che in vino veritas dove la trovi la voglia di amare, guardare il paradiso da fuori senza poterci entrare. Parole d'amore, parole amare, le prime sono sempre più rare. Tu continui ad urlare che non sono mai piaciuti ai tuoi, dimenticandoti che tutto ciò è piaciuto a noi. E ora la rabbia mi imbocca di cattiverie, mentre lancio i piatti io prendo a calci le sedie. Grido fatti vedere, no, non ti fa bene ciò che sono. Non c'è coppia perfetta, perché nessuno è perfetto da solo. Oggi c'ho un bel cielo aperto, ma io non entro, perché porto solo il freddo come l'inverno. Fuori quanto è brutto il tempo, però si è calmato il vento, il mio sguardo è meno freddo, questo inverno sta finendo. Ogni cosa c'ha il suo tempo, chi ha pazienza ne uscirà, vado avanti e non ci penso, questo inverno passerà. Nella testa c'ho le immagini di quando stavi ancora qui, mentre cancello le tue immagini dal mio PC. L'attrazione non è sempre amore come dicono, due calamiti uguali a volte si respingono, e a volte vincono gli errori, se servono a imparare. Tu sei solo uno sbaglio da non rifare. Tolgo la vibrazione al cellulare quando dormo, così se mi chiami con te in un sogno non me ne accorgo. Morto dentro, innamorato di un ricordo, lottano ragione e sentimento. Vorrei dimenticarti al mio risveglio come me, mento. Quando dico che ora penso solo a me, mento. Certo, tu mi pensi, io ti penso, ma se una storia non ha fine non ha senso. Penso che pure in questo inferno, con certe parole di ghiaccio ti perno come l'inverno. Fuori quanto è brutto il tempo, però si è calmato il vento, il mio sguardo è meno freddo, questo inverno sta finendo. Ogni cosa c'ha il suo tempo, chi ha pazienza ne uscirà, vado avanti e non ci penso, questo inverno passerà. Sì, i discorsi freddi che fai si scioglierebbero nel calore di un abbraccio, lo sai. E noi fino a poco fa ci credevamo grandi, ma mo siamo esposti ai bei ricordi mentre grandi na noi. E finché dura mi accontento, quando un cielo bello arriva al culmine, servito dal maltempo. E così è stato un colpo di fulmine, ma adesso dai tuoi occhi sta piovendo. Una nuvola che non si sfoga e resta nera, tutto passa in fretta come una nuvola passeggera. Stasera, cuore in gola, oggi con le lenzuola, fredde come la stagnola perché dormi sola. Vola in alto con la testa e stai con i piedi a terra. Dopo la tempesta ci sarà la calma, tutto fermo, bevi, goditi il silenzio. Anche questo inverno sta finendo. Fuori quanto è brutto il tempo, però si è calmato il vento, il mio sguardo è meno freddo, questo inverno sta finendo. Ogni cosa c'ha il suo tempo, chi ha pazienza ne uscirà, vado avanti e non ci penso. Vi ricordo che questo è Slalom, la trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13, in diretta su CRM Happy Radio, la radio che potete seguire tramite internet. Il nostro sito, ve lo ricordo, è www.crmhappyradio.it. Da lì potete anche fare le vostre dediche e richieste, come del resto ha fatto anche la nostra cara amica Veronica, che ci ha richiesto la canzone che fra poco sentirete in sottofondo, che è quella firmata da Arisa ed è che è quella che ha partecipato all'ultimo Festival della Canzone Italiana con il titolo La Notte. Il 18 aprile sono successe tante cose, una in maniera particolare: nel 75 veniva pubblicato Stand By Me di John Lennon. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Thank you.

insomma, bello bello, non direi. Vabbè, dai, è stato un complimento un po' più troppo esagerato, come direbbe anche qualche altra persona. Per colpa di chi, la canzone che ci ha dedicato questa mattina Zucchero in diretta su CRM Happy Radio. Adesso consigli commerciali, poi ripartiremo con la musica, con una canzone veramente stupenda firmata da Oliger Opera e stata prodotta a suo tempo da Elton John, Your Song. Rimanete in ascolto perché è una canzone veramente Slalom Flashback. Credo che l'attesa sia stata ripagata egregiamente con questa interpretazione veramente deliziosa di Augereau di Your Song, una canzone che è stata pubblicata negli anni 70 dall'Elton John inglese. Nel 1948 in Italia si tengono le elezioni per la prima legislatura repubblicana per effetto della riforma elettorale, quindi da quel momento in poi le donne hanno il diritto al voto. Alla Democrazia Cristiana va il 48,5% dei voti. Start out of blood, the most to poke. I don't have no fancy things. I'm just a soul man, listen here, baby. I'm not a superman, not at all. It's just me and my dreams, and this bright what it seems. Needing much, but yet it's just enough. Themselves mine. Don't have the cool of Cary Grant style. Don't have a special mind or the genius of Einstein. I'm just not that kind of guy. Don't have the warmth of Neil Armstrong. Don't have the power of King Kong. No, don't have a band of sports on the wheel of Rosa Parks. Sia divertente ricordare degli avvenimenti avvenuti tanto tempo fa, come quello che stiamo dicendo anche adesso. Infatti il 18 di aprile del 1949 la Repubblica d'Irlanda proclama la propria indipendenza dal Regno Unito. Nel 55, sempre nella stessa giornata, negli Stati Uniti, ahimè, muore il fisico Alberto Einstein, che sicuramente ha dato un notevole tocco alla fisica mondiale. E nel 56 si celebra il matrimonio civile tra il principe Raniere III di Monaco e l'attrice Grace Kelly. Continuiamo con la musica, vi ricordo che questa è CRM Happy Radio, la radio che potete seguire tramite il nostro sito internet, basta digitare www.crmhappyradio.it e da lì potete fare anche le vostre dediche e richieste, come ha fatto anche la nostra cara amica Francesca, richiedendo questa canzone che già sentite in sottofondo. Salutiamo Francesca che ci ascolta da Castelbuono. Time here, we stay. Oh,

Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Slalom. Flashback. Quelli della Lega Nord continuano a dare del ladro a tutti, ma a spararle anche di grosse, come hanno pubblicato in questi giorni via internet. L'europarlamentare della Lega Nord, Mario Borghesio, è riuscito a trovare nuovamente un pulpito dal quale lanciare le sue sentenze, che sarebbero anche divertenti, salvo fatto che comunque il suo stipendio viene pagato da tutti. Ha detto che venderebbe prima la Campania e poi la Sicilia. M'abituerò a non trovarti, m'abituerò a voltarmi e non ci sarai, m'abituerò a non pensarti quasi mai, quasi mai, quasi mai. Sempre uno strappo, e c'è qualcuno che ha strappato di più. Non è mai qualcosa di esatto, chi ha dato e poi chi ha preso tutto quel che c'era. Non conta più sapere chi ha ragione. Ligabue canta M'abituerò, ma noi ci abitueremo a queste notizie che arrivano da tutta Italia, come quella di Alfano, Bersani e Casini, che si sono messi d'accordo e hanno fatto veramente una bella unione, soprattutto bloccando la riforma sulla legge sui rimborsi elettorali. E c'è chi grazie ad essa si è arricchita alle nostre spalle, e non si parla soltanto dei grandi partiti ma anche di piccoli partiti, come così come ha fatto l'Associazione Italiana in Sud America dell'ex senatore Luigi Pallaro. È riuscita, pensate, a racimolare più di 1.200.000 euro, un vero colpo di genio per Pallaro, che ha annusato il business della politica, e questo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ah, ma veramente c'è da impazzire. Per la città passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, seguirò.

Fra poco sarà possibile acquistare anche l'amata TV tra una libreria Billy o un divano al colosso svedese dell'arredamento low cost. E Fai da te ha infatti emesso un comunicato per annunciare l'accordo appena siglato con la Cina, che venderà quindi prodotti elettronici a largo consumo. L'idea, così si appresta a dire l'IKEA, è quella di vendere TV e sistemi auto progettata che dovrebbero partire in 5 città europee entro giugno. Ora io vorrei capire, daranno il transistor, il mobilio e il cacciavite e ci diranno se lo monti lei? Slalom Flashback. Canzone d'amore, così cantavano negli anni 70 le orme. Maria De Filippo è pronta a lasciare Mediaset per approdare a Sky, come hanno fatto già Benedetta Parodi e Cristina Parodi. Insomma, c'è un fuggi-fuggi per quanto riguarda casa Mediaset per approdare in Sky oppure in qualche altro network ancora più importante, ma soprattutto per racimolare ancora più. Slalom Flashback. That I watched and let you stop. me. What goes around comes around. You'll see that I can carry the burden of pain. Cause it ain't the first time that a man goes insane. When I spend my wings doing reason for life, I got out of love, I'll never be nobody's wife. I'm sorry for the time that I didn't come home. Left you lying in the bed alone. Lying high in the sky when you needed my shoulder. Hanging around my neck, see. Cut it looking for a bridge, my back, see. I gotta say what I feel for I grow older. Sorry, but I ain't gonna change my ways. You know I try, but I'm still the same. I got to do it my way. Yeah. Too bad, but hey, that's me. What goes around comes around. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Abbiamo accontentato Alessia che ci ha richiesto questa bella canzone di Alexander Stan intitolata Mr. Sexy Beat. Vi ricordo che questa è Slalom, la trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13 più o meno, e sono le 11.44 in diretta su CRM Happy Radio, la radio che potete seguire anche tramite internet da qualsiasi parte del mondo voi vi troviate. Belen non balla più con Fabrizio, questa notizia gira su internet e qualche fondo di verità potrebbe anche averla. Lei si è buttata nella danza, lui si rode il ferro. Da quando Belen Rodriguez si è trasferita a Roma per fare la guest star del programma di Maria De Filippi con lì all'interno di Amici, l'aria sembra essere diventata piuttosto pesante. Enrico Bono, la neo showgirl siciliana, condurrà allo spettacolo La Scienza in TV, ma verrà a provare abiti nei palli di modella, è sempre lo spettacolo più bello. E così su Twitter capita di spirciare la showgirl alle prese con vestiti e vederla anche in toplex. The word that I miss the volume, what'll I say without you? Oh, I don't know what to do with myself. Now

I can go for that, you can do that, y'all, e John Nutzel. Aida Clan si svela per Allur Magazine. La bella donna 38enne, ex modella, ancora più sexy, è stata immortalata e ha fatto delle dichiarazioni piuttosto piccanti dopo essersi divorziata dal cantante americano Seal. E praticamente parla del fatto che comunque è difficile, dopo 6 anni di matrimonio e 4 figli, ritrovarsi nuovamente da sola, tra cui uno di questi figli è proprio frutto di un amore con Flavio Briatore. E cosa dire, poi svela anche dei segreti avuti sul sesso avuto dagli amici gay. Che vogliamo fare? Vi ricordo che questa è CRM Happy Radio, la radio che potete seguire tramite il nostro sito internet, che è www.crmhappyradio.it. Slalom Flashback.

Merci a Madu e Mariam. Canal Più del francese ha commesso veramente una bella gaffe, infatti domenica c'è stata una proiezione per adulti in pieno giorno, è scoppiata una polemica, la TV quindi a pagamento ha trasmesso domenica alle 13.40 al posto di Arthur il popolo Minimei questo film senza il dovuto filtro che avviserebbe i genitori che il programma è dedicato a un pubblico. Slalom Flashback. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. We'll be right back. non credi, non credi, no. Dentro il tempo di riuscire fuori, tu mi dai il segno che io non rimango solo. Raffaella Figo vuole sposare Mario Ballotelli, ma spunta un altro donna. Il Super Mario veramente ne combina tante, sia in campo che anche fuori. Le cose, diciamo, come ha dichiarato Raffaella Figo, vanno a gonfie vele, c'è anche alla luce di una maggiore serenità, stiamo progettando proprio delle nozze con Mario Ballotelli. Ma così non è, perché trapela che il Super Mario ha avuto una storia che è durata per 2 anni con Clone Evans, un'amica dell'escort Jenny Thompson, come si legge proprio nel sito inglese People. I due si sono conosciuti e c'è stata una relazione. Super Mario, Super Mario. Sincera. Caro, amore bello, ti voglio, ho visto cattedrali di luce nel cuore, troppo sole può fare morire, amore caro, amore bello. Che assomiglia a me, le mani le ha, oppure sì, e poi cosa? Io voglio na, na, na. Io se lascio te sono solo. Ma cosa accade? Tu non parli e non piangi stasera, come un bimbo mi guardi severa, e io soffro tanto. Strano, d'improvviso mi sento arlecchino.

tranquillamente possiamo anche utilizzare i gamberi surgelati senza nessunissimo tipo di problemi. Li facciamo ovviamente scongelare prima e comunque li andremo ad inserire. Bagneremo con mezzo bicchiere di brandy e faremo cucinare all'incirca per 5 minuti. Quando avremo cucinato la pasta andremo ad incorporare, quindi unire i due composti, e solo ed esclusivamente alla fine prenderemo un mazzetto di rucola selvatica tagliato a julienne, amalgamiamo il tutto, metteremo una manciata di parmigiano e una spolverata di pepe nero e andiamo a servire su un piatto che deve avere praticamente il fondo con un ciuffetto di rucola. Praticamente deve fare come se fosse un contenitore. Okay. Andremo a presentare il piatto in questo modo, metteremo un filo d'olio extravergine d'oliva e serviremo ben caldo. Ancora una piccola spolverata di pepe, ed è un piatto che comunque è consigliato il fatto di mangiarlo abbastanza caldo. Tutto qui. Bene, ti ringrazio che anche per oggi, considerando che hai tanto da lavorare, ci hai dedicato questo minuto e ci hai soprattutto iniziato questa bella ricetta. È sempre un estremo piacere. Grazie Alessandro, buona vita, ciao, buon lavoro e salutami i tuoi collaboratori. Ciao carissimi, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao Alessandro. Slalom. Flashback. Get down on it. Come on and get down. Gang. Negli anni '80 cantavano questa canzone che si intitola Get Down On It. Laura Bareales, che è uscita dall'Isola dei Famosi e viaggia coast to coast, infatti sta per sbarcare in prima serata, pensate un po', su Rai 2 con il programma comico Coast to Coast, affiancata dal trio Medusa. La Bareales prende il posto di Vanessa Incontrada, una piccola guerra tra spagnole e italiane in campo comunque italiano. Però Laura Bareales sembra non pensarci minimamente. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Pianto e non ho saputo comprendere